Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Quando un'inchiesta giornalistica approfondita e dettagliata diventa gossip? Il tema è controverso e non di univoca risposta. Esistono opinioni e non verità. Secondo il mio modestissimo parere, la differenza sta nella motivazione di fondo. In sostanza, se ciò che spinge all'inchiesta giornalistica è l'esigenza di porre un problema in maniera pragmatica per indicare un ventaglio di soluzioni, tutto questo è positivo ed è giornalismo. Se invece, come sempre più spesso accade in Italia, da entrambe le parti, il fine dell'inchiesta è dimostrare la poca addirittura morale di un avversario politico o la sua incapacità, questo è soltanto gossip, non certo giornalismo. Feltri, Ezio Mauro, Emilio Fede, Santoro e tanti altri sono giornalisti gossipari, giornalisti con capacità indiscutibili che, indossando la loro rispettiva casacca, conducono le loro inchieste solo per screditare l'avversario. Questo inficia, a mio avviso, l'utilità delle loro inchieste. Il giornalismo deve far crescere l'opinione pubblica e quindi deve porre un problema morale, politico o gestionale e informare sulle possibili soluzioni. Il giornalista non è super partes, né lo deve essere. Anzi, deve dichiarare la propria opinione, esponendo però anche le opinioni opposte, senza screditarle a priori. La funzione del giornalista non deve né può essere quella di entrare in campo a favore di un partito, né quella di fare inchieste che favoriscono la casacca che indossa lo stesso giornalista. L'unico esempio di giornalismo d'inchiesta che si può apprezzare in Italia è la trasmissione Report. Trasmissione di chiara inclinazione politica, peraltro mai nascosta, ma che conduce le sue inchieste senza una volontà preordinata per screditare chi che sia. E che propone un ventaglio di soluzioni, anche opposte, ai problemi posti durante l'inchiesta. Oggi la deriva culturale e l'imbarbarimento del dibattito nella società si misura sui risultati, di vendita o di ascolto, di quotidiani come Il Giornale di Feltri o di trasmissioni come Anno Zero di Santoro. Il nostro paese, in piena crisi economica e politica, preferisce dibattere sugli scandali invece di trovare delle soluzioni per far rinascere il bel paese. I risultati del mercato editoriale danno ragione a questi gossipari, quindi è questo il giornalismo che più interessa agli italiani. Che piaccia o meno, i risultati sono incontestabili. Il gossip ha più risultati editoriali del giornalismo e questo rivela in maniera inequivocabile il livello dell'opinione pubblica italiana. Massimiliano. Avrei due quesiti per l'entrepreneur Patrizia Daddario. Uno. Qual è l'importo delle imposte pagate nell'ultimo quinquennio? 2. È in regola con il pagamento dell'abbonamento RAI? Piero. Alla faccia della presunta minacciata libertà di stampa, i più intimiditi stanno facendo di tutto per alzare sempre di più l'asticella della provocazione, per poi essere pronti al martirio programmato. E intanto gli ascolti volano, i toni scadono e gli insulti, mascherati da satira, fanno venire il voltastomaco. Ma di che libertà stiamo parlando? Quella di regime? Ma intanto nei salotti buoni ci si scandalizza per il Grande Fratello, ma non per l'Aguzzanti, con una differenza. Insultare un ministro del nostro paese sarebbe un reato. Si fanno le domande a Berlusconi, ma si firma per chiedere la libertà a Polanski. Ma per favore, non cadiamo nel ridicolo. Luca, Milano. Per una volta tanto, vorrei difendere il nostro povero premier da tutti questi attacchi mediatici che gli arrivano da tutte le parti, giornali compresi. In fondo, sta cercando di fare il suo lavoro. E poi tutte queste domande fastidiose su Noemi, la Daddario e via dicendo. Ma dategli un po' di respiro. Fategli domande più facili. Dopo tutti gli sforzi per consegnare le case ai terremotati d'Abruzzo, il suo proclamarsi il miglior premier degli ultimi 150 anni o il suo autodefinirsi migliore di Superman, Non dovrebbe avere grosse difficoltà a rispondere alle domande sulla mala sanità, sugli sprechi e sull'inefficienza dell'amministrazione pubblica, sul disagio sociale che serpeggia in Italia, omicidi familiari, stupri tra minorenni, crescente disagio adolescenziale, eccetera. Sulle difficoltà per i piccoli imprenditori che non sono supportati da nessuno, sulle coppie che non riescono ad acquistare casa perché le banche non erogano i mutui, e sulla giustizia che latita, in quanto manca la certezza della pena e i delinquenti ne approfittano. Lasciamo alle trasmissioni mondane parlare di escort e di pettegolezzi. Radio 24 parli di politica e di economia, che è la cosa che sa fare meglio di chiunque altro. Daniele. Quando qualche giorno fa il conduttore di Uno Mattina ha congedato il suo ospite, Silvio Berlusconi, dicendo «Questa è casa sua», in molti hanno gridato allo scandalo. Eppure qualche giorno prima, ospitando Bersani, il conduttore lo aveva salutato esattamente con le stesse parole: «Questa è casa sua». Probabilmente si trattava in entrambi i casi di un'espressione un po' infelice, visto che la RAI è sostanzialmente in mano al partito di turno. Avrebbe forse fatto meglio a dire «Venga a trovarci quando vuole». Però, dicendo questa frase, era davvero in buona fede. Eppure gli esponenti del PD e dell'Italia dei Valori si sono affrettati nel dire «Ah, giornalisti al soldo di Berlusconi! Avete visto? Questa è la prova che chi lavora in RAI è ormai nelle mani di Berlusconi. Ecco il monopolio televisivo. Atteggiamento squalificante, eccetera, eccetera. Pagine di inchiostro in tutti i quotidiani e interrogazioni a destra e a sinistra». Ma quando il conduttore aveva salutato con lo stesso stile l'allora ospite Bersani, neppure una microscopica riga sul gazzettino di Canicattì. Che strana questa Italia. Francesco, Siena. Scrivo in merito alle discussioni del rientro dei capitali. Sbaglio o circa 2-3 anni fa con la sinistra al governo, Valentino Rossi e Luciano Pavarotti pagarono solo circa il 20% di ciò che avrebbero dovuto per aver portato i loro capitali all'estero. Allora non ci fu scandalo, né da una parte politica né dall'altra. E se non vado errato, al momento del saldo ci fu tutta una cerimonia davanti alla stampa, come se fossero dei benefattori. Antonio, Milano. Ci fu un brevissimo periodo, un paio di anni fa, durante il quale tutti i bar ed esercizi commerciali rilasciavano gli scontrini fiscali. Il motivo di tanta onestà fiscale era che circolava la voce che la Guardia di Finanza avrebbe chiuso gli esercizi beccati per 3 volte in flagrante omissione di scontrino fiscale. Durante questo brevissimo periodo ricevevo gli scontrini fiscali sempre, anche dai bar dove ero cliente consolidato e conosciuto. Purtroppo tale onestà fiscale durò un paio di settimane, fino a quando non venne fuori che si trattava, purtroppo, solo di una voce. Però ho capito che non è impossibile far pagare le tasse a tutti. Basta solo inasprire le pene per chi non le paga. Elementare. Sergio, Modena. Cara Radio 24 e gentile direttore, in merito alla contestazione da parte dell'opposizione in Parlamento riguardo alla conferma della fiducia sullo scudo fiscale e relativo condono, vorrei ricordare a questi signori che nel precedente governo hanno concesso il condono penale a criminali che stavano in carcere solo perché c'era sovraffollamento. Ebbene, invito alla riflessione. È peggio lo scudo fiscale per portare soldi nel paese o liberare criminali per strada? È opportuno quindi che si lamentino, poiché è nella loro natura, ma forse dovrebbero farlo a bassa voce. Christian. Carissimo direttore, il nostro paese è rappresentato da persone occupate più a farsi una guerra mediatica e giudiziale che a sedersi attorno ad un tavolo per esaminare i reali problemi di chi, come me, deve, e sottolineo deve, lavorare per pagare i disservizi che dovrebbero essere garantiti. Ecco allora la mia proposta. Se si vuol combattere il lavoro nero e l'evasione fiscale, perché non mettere ogni cittadino nella condizione di avere solo dei vantaggi nel dichiarare ogni singola spesa? Magari si potrebbe dare modo a tutti coloro che hanno un reddito dimostrabile di poter detrarre ogni singola spesa, dal paio di calze comperato al mercato della domenica al taglio di capelli fatto dalla parrucchiera sotto casa. Se si potesse regolamentare il flusso di entrate e uscite di un nucleo familiare nello stesso modo in cui è regolamentato quello delle aziende, si riuscirebbe anche ad individuare quali dovrebbero essere i parametri del paniere per l'aggiornamento Istat. E poi nessuno avrebbe più interesse a rinunciare ad una ricevuta fiscale o a una fattura per non pagare l'IVA. Matteo, Verona. Caro Matteo, la sua proposta ha un lato positivo, quello di creare le condizioni per una maggiore trasparenza, oltre a far sì che sia interesse di tutti chiedere sempre gli scontrini fiscali. Ma ci sono anche molti altri lati che rendono impraticabile la sua ipotesi. C'è un problema pratico. Ogni cittadino dovrebbe raccogliere e catalogare migliaia di scontrini, tenere registri, conservare la documentazione. In qualche caso, come per le spese mediche o quelle per la ristrutturazione delle case, questo già avviene, ma estendere la possibilità di deduzione sarebbe quasi impossibile. Ma soprattutto c'è un aspetto di politica fiscale. Se si rendono deducibili le spese, che cosa resta da sottoporre a tassazione? Resterebbe solo il risparmio e necessariamente, se si vuole mantenere almeno stabile il gettito fiscale, ci vorrebbero aliquote da esproprio. Caro Matteo, bisogna invece dare maggiore fiducia ai cittadini. Il sistema fiscale è già abbastanza complicato per pensare di complicarlo ancora di più. Sarebbe invece necessario ridurre le aliquote e le tasse. Un governo saggio dovrebbe accompagnare e sostenere con un alleggerimento fiscale i piccoli segnali di ripresa che si stanno manifestando. Da gennaio 2010, salvo proroghe ultimamente smentite, per entrare nel settore dello stadio riservato ai tifosi ospiti, normalmente occupato dagli ultra, sarà necessaria la tessera del tifoso. Una prima interpretazione letterale dell'articolo numero 9 della legge 401, che regola la questione, negava la possibilità di ottenere la tessera non solo a chi ha in corso un DASPO, divieto di accedere alle manifestazioni sportive, ma anche a chiunque avesse avuto in passato una condanna per reati da stadio. Nella sostanza, una tessera solo per persone dalla fedina penale, almeno in ambito di tifo sportivo, immacolata. Gli ultra, oltre a farsi sentire con le bombe carta dell'Olimpico di Roma, lo hanno fatto con i loro avvocati, che hanno avanzato dubbi di costituzionalità, tanto che il ministro Maroni ha promesso una modifica dell'articolo di legge sotto esame. Gli unici che non avranno diritto alla tessera, in sostanza, saranno chi ha un DASPO in corso e i condannati anche con una sentenza di primo grado negli ultimi 5 anni, purché non abbiano già scontato il DASPO per quel reato. La mia impressione è che in trasferta continueranno ad andare sempre gli stessi, purtroppo, e che al massimo il tutto servirà unicamente alle questure per formare una schedatura degli ultra. Dato che alcune tessere varranno anche come carte prepagate, saranno utili anche alle banche per entrare in contatto con nuovi clienti. A quanto pare, ad oggi, le società in regola con la tessera del tifoso sono 2. Daniele, provincia di Venezia. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.